America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the president elect of the United States of America, Donald Trump. Bene, ve lo accennavo l'altro giorno, siamo ormai a un anno dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane. Questo presidente che ha cambiato l'America, ha cambiato il mondo. È vero che poi Trump ha giurato più in là, ha giurato alla fine di gennaio, però insomma questo anniversario delle elezioni non possiamo dimenticarlo, e dunque un po' tutti dando la loro interpretazione. Mi ha colpito quella dell'Economist, che parla di una ritirata americana dallo scacchiere mondiale. Lo fa l'Economist in modo provocatorio, dicendo, beh, insomma, il fatto che Trump abbia puntato su America First si è tradotto in un mondo che è worst off, un mondo che è peggiorato. Qual è la tesi dell'Economist? Beh, è che, insomma, Donald Trump ha cambiato una serie di dinamiche mondiali, ha spinto verso il nazionalismo molti paesi, anche paesi influenti nella loro area geografica, dalla Russia alla Cina, hanno seguito questo trend che già in qualche modo avevano cominciato a percorrere. E c'è, come dire, una visione un po' pessimistica del futuro del multilateralismo. C'è un pronostico interessante che fa l'Economist, su cui non mi trovo d'accordo, cioè si dice, ma Trump durerà un term, durerà soltanto il primo mandato, anche se nel secondo mandato l'America dovesse cercare di recuperare il suo ruolo, beh, non ci riuscirà davvero, perché il danno che è stato compiuto da questa amministrazione dal punto di vista della leadership mondiale dell'America, non basterà qualche anno, quindi un nuovo presidente, un nuovo mandato, per recuperarla. Questa analisi dell'Economist, secondo me, è limitata, perché, ad esempio, ho ascoltato il discorso del presidente Trump all'Assemblea Nazionale a Seoul, ed è stato un discorso che non si è discostato dai discorsi tradizionali dei presidenti americani in Asia. È stato un discorso molto applaudito, è stato un discorso che ha dato una visione in cui la leadership americana resta. Non dimentichiamo che l'America continua ad avere delle basi militari importantissime intorno al mondo e soprattutto in Asia, soprattutto in questo caso in Corea del Sud. Ecco, detto ciò, la strategia di Donald Trump in effetti è cambiata. Secondo me l'analisi dell'Economist è un po' sensazionalistica, la problematica è più complessa. Gli Stati Uniti restano una potenza, e qui ecco il mio interloquire, se volete, a distanza con l'Economist, indipendentemente dalla presidenza Trump. Anche se sul piano della cronaca, in qualche modo, Donald Trump qualche cosa di nuovo lo ha introdotto, per esempio ieri in Cina, confermando questo quadro di America che sta cambiando un po' il passo. Ma è l'America che sta cambiando il passo o è la presidenza Trump che sta cambiando il passo? Sentiamo. President Xi, I want to thank you for that incredible welcoming ceremony earlier this morning. It was truly memorable and impressive and something I will never forget. Ecco, nel corso del suo intervento in Cina, a fianco del presidente Xi Jinping, Donald Trump ha detto due cose nuove rispetto ai presidenti passati. La prima, certo, abbiamo questo enorme disavanzo commerciale nei confronti della Cina, centinaia di miliardi di dollari, ma la colpa non è della Cina, la colpa è del mio predecessore che non ha seguito politiche adeguate. E questo ha lasciato naturalmente perplessi, perché è la prima volta che gli Stati Uniti, diciamo, non assumono un tono di confronto nei confronti della Cina per ciò che riguarda l'equilibrio economico. Non solo, il presidente Trump ha usato toni straordinariamente elogiativi di Xi Jinping, proprio sul piano personale. Ecco, queste sono sfide molto interessanti che guardano al futuro. Torneremo sull'analisi della presidenza Trump, ma oggi vorrei chiudere con un taglio un po' culturale, perché ieri sera a New York si è dibattuto attorno a un volume, Tecnologia e Passione, un'analisi della Pirelli fra il 1872 e il 2017. In consolato italiano c'era l'ambasciatore italiano Armando Varricchio, c'era Marco Tronchetti Provera, insomma tutto questo fa da contorno a che cosa? Al lancio che sarà questa sera a New York, al Manhattan Center, lancio spettacolare del calendario Pirelli 2017. 2018, un calendario che è stato fotografato da Tim Walker, grande fotografo di moda britannico, attorno a una reinterpretazione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Ecco, questo mi dà l'opportunità di fare una piccola analisi di quelli che sono gli eventi che rappresentano l'Italia in America. Alcuni sono molto buoni, per esempio questo della Pirelli, perché è un evento positivo per l'Italia sul piano industriale, sul piano culturale. Qualche giorno fa c'è stato a Washington, sempre in ambasciata, un evento dell'Italian Scientific Scholar North America Foundation, cioè ISNAF, è una fondazione che raggruppa scienziati accademici italiani che lavorano negli Stati Uniti, è un punto di contatto per la diaspora italiana che è catalogata così, cervelli in fuga. In realtà cervelli in fuga non sono, sono le nostre antenne nel mondo, molto importanti per il nostro paese. C'è stato l'altra sera un altro evento importante, l'American Italian Cancer Foundation, che ha raccolto fondi per portare giovani studiosi, scienziati italiani a studiare il cancro in America, ma anche per aiutare americani e americane, soprattutto che sono meno abbienti, a poter fare delle mammografie. Ecco, a fronte di questi eventi, che sono molto costruttivi per l'immagine italiana, ce ne sono altri che propongono premi, riconoscimenti sotto il manto di una dubbia bandiera italiana, e sono eventi che continuano a crescere, non hanno un carattere di beneficenza, non promuovono l'immagine italiana in America perché sono di taglio autoreferenziale, se va bene sono innocui, se va male, beh, diventano eventi un po' da sagra paesana che neutralizzano purtroppo questi sforzi positivi dei grandi eventi. Ecco, io credo che su questo si debba riflettere per dare spazio sì a questi eventi straordinariamente positivi che mettono l'Italia al livello top nel contesto globale, e magari, ma questa è una responsabilità delle nostre autorità, magari scoraggiare altri eventi che sfruttano la bandiera italiana nel nome del profitto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, chi è lo strongman? Chi è l'uomo duro? Abbiamo parlato dell'anniversario del presidente Donald Trump, che si è presentato come un duro, ma lo è davvero? Di Kelly Price, Strongman. When I was a baby girl, mama put in me, you can be anything that you wanna be. Now that I'm older and I'm much bolder, a time or two love has walked out on me. I don't know why, guess it was the wrong guy, and he didn't fit into my destiny. But that's alright and that's okay, 'cause I got someone who will love me. È tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!